Perfetto, allora allungate le gambe, siete a pancia in su, supini, e cominciamo ad osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e arrivando fino alla testa. Titolo della lezione: orologio con la spalla e l'anca sul fianco. Osservate come sono messe le punte dei piedi, gambe allungate. Ricordate sempre di non aggiustarvi, quindi solo di prendere atto e di osservare come appoggia una parte e l'altra, e se ci sono delle asimmetrie non aggiustatele, prendete solo atto, osservate quali sono le vostre abitudini. Quindi abbandonatevi col peso per terra ed evitate di irrigidirvi, così ascoltate meglio. E osservate come appoggiano i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia e le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra, e se fate fatica a capire che parte appoggia di più e che parte è più sollevata, provate piano piano a fare il movimento di sollevare e appoggiare prima un'anca e poi l'altra, e osservate se di fatto l'anca la sollevate o il primo vostro moto, la prima vostra abitudine e tendenza è di premere e poi sollevare. Quindi osservate qual è la parte che di fatto naturalmente tende con movimento minimo in ascolto a sollevarsi e quella che tende a premere. A premere. Ok, e adesso continuate con l'osservare l'appoggio di tutta quanta la colonna vertebrale, partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Quindi osservate come preme il coccige, come è messo l'osso sacro, l'arco lombare, se è più o meno inarcato rispetto al solito, e poi come appoggiano le vertebre toraciche, le costole, quelle basse, quelle alte, collo, la testa, come tenete la bocca, se è morbida o se stringete i denti, se rigidite i muscoli della bocca, della mandibola, e infine osservate come appoggiano le due scapole rispetto alla colonna vertebrale, se ce la fate ad osservare quale è più in dentro verso la colonna, quale è più in fuori, e poi come sono messe le due spalle, quale è più avanti verso il soffitto e quale invece più indietro verso il pavimento. E anche per rendervi conto di questa abitudine, se avete bisogno, provate a muovere avanti una spalla e l'altra e vedete effettivamente qual è quella che sta più in avanti, quella che sta più indietro, che si muove con più facilità in un senso o nell'altro. E poi osservate come appoggia un braccio e l'altro rispetto al corpo, quale più vicino, più lontano, come appoggia il gomito, il polso, le mani, le dita, queste dita che molto spesso sono sparate, staccate da terra. E infine osservate come state appoggiati completamente con una visione globale, se ce la fate, di tutto il corpo a terra, e passate ad osservare il respiro, se è profondo, superficiale, di addome, di torace, con entrambi. E osservate se riuscite ad abbandonare il peso del corpo sul serio, per terra, o se anche siete sdraiati, vi state tenendo. E se non ve ne rendete conto, potete provare una o due volte a irrigidirvi tutti e poi, mentre espirate, a lasciare andare piano piano. Così potete rendere conto quanto tendete a tenervi, quanto vi abbandonate, quanto siete congelati o quanto siete morbidi. Quello che Anat Baniel chiama il coniglio congelato. Ok, adesso la lezione è principalmente su un lato. Poi io direi facciamo un lato, se avanza un po' di tempo la riassumiamo velocissimamente dall'altra parte, altrimenti facciamo un lato solo e imparate, quando siete in piedi, a percepire le differenze tra un lato e l'altro, e già questo vi aiuta a modificarvi. Per scegliere il lato, se qualcuno ha un lato sul quale fa fatica a stare, si metta sul lato sul quale vuole stare. Per chi è più o meno indifferente, si metta sul fianco sinistro. Quindi chi fa fatica a stare sul fianco sinistro si metta pure sul destro, non c'è problema. Per chi è più o meno indifferente, anche se c'è sempre un lato sul quale si sta meglio, si metta sul fianco sinistro. Vedete se state meglio con la testa appoggiata sul braccio, per esempio, se siete sul braccio, sul fianco sinistro, se la testa sta meglio appoggiata sul braccio sinistro, o se state meglio con un cuscino sotto la testa. Evitate di mettere il braccio sopra i cuscini, o cuscino o braccio. E l'altezza del cuscino è meglio se è sul prolungamento, se è con la testa sul prolungamento della colonna vertebrale, non con la testa che casca in giù e stira il collo. Se avete la testa sul braccio, il braccio è allungato, non piegato. Le gambe sono ben piegate a seggiolina, quindi 90 gradi tra tronco e coscia e 90 gradi tra coscia e gamba. Ok. E adesso mettete, non vi dirò più destra e sinistra perché c'è chi è sul lato destro. Grazie. E chi è sul lato sinistro. Se qualcuno fa fatica e sente tirare all'anca che è sopra verso il soffitto, può mettere tra le gambe un cuscino, così l'anca viene sollecitata meno. Fai bene, con i tuoi problemi d'anca è perfetto. Adesso ciascuno è sul lato sul quale sta meglio e mette il braccio del lato che è sopra. Esempio, se uno è sul lato sinistro, mette il braccio destro allungato, appoggiato sul fianco e sopra l'anca. Ed ora cominciate piano piano a muovere la spalla che è sopra. Per sopra intendo la parte che è verso il soffitto, che non è appoggiata a terra. Muovete quella spalla verso l'orecchio e poi piano piano tornate in posizione neutrale. Assomiglia ad una lezione che abbiamo già fatto. E continuate piano piano a muovere questa spalla verso l'orecchio. E osservate se continuate a respirare e come tenete la bocca. E come e se viene coinvolto il torace. Ok, adesso, man mano che muovete la spalla verso l'orecchio, osservate se potete far partecipare altre parti del corpo, visto che sempre il movimento di una parte è il pretesto per far muovere tutto quanto e imparare. Uno, a vedere cosa fate, e due, nuovi modi di muoversi, in modo da muoversi col massimo dell'efficienza e il minimo dello sforzo, in un certo senso in abbandono. Quando sollevate la spalla verso l'orecchio, fate attenzione, osservate cosa succede nella parte del torace che sta appoggiata a terra, quindi sull'altro fianco. State facendo qualcosa o sta fermo? Se lasciate il movimento libero di passare, vi accorgerete che dopo un po', quando muovete la spalla verso l'orecchio, le costole del fianco sotto si sollevano un po' da terra e, detto in un altro modo, il fianco che sopra un po' si allunga, le costole del fianco sopra un po' si allungano. Sempre osservando come respirate, come tenete la bocca e ricordandovi che più il movimento è piccolo e lento, più è efficace, più riuscite a percepire, ascoltare e a poter cambiare le direzioni del movimento. Ok, adesso muovete la stessa spalla verso il basso, verso l'anca. Esempio, se siete sul fianco sinistro, muovete la spalla destra in basso verso l'anca destra. E osservate adesso cosa vuole muoversi oltre la spalla. E se fate un movimento piccolo, vi accorgerete che se fate un movimento un po' grande, vi viene come da stirare il collo. E allora, invece di stirare il collo, provate, quando muovete la spalla destra, se siete sul fianco sinistro, verso il basso, a sollevare leggermente la testa. Ho detto in un altro modo, quando muovete la spalla verso l'anca, sollevate la testa, ma premete il fianco che è sul pavimento. Mentre prima si sollevava, adesso viene premuto. Osservate se effettivamente state sollevando un po' la testa o se la state ruotando sul braccio, sul cuscino. Il movimento che vi ho chiesto è di sollevare qualche millimetro la testa dal braccio o dal cuscino verso il soffitto. Tutta la testa? La testa? Sì. Ma il braccio è morbido e la testa si solleva un millimetro o due, tanto di non forzare stirando il collo. Il braccio sopra rimane morbido, la mano sta abbandonata sul corpo, non si allunga verso il basso. Ok, adesso fate i due movimenti di seguito. Quindi muovete la spalla molto lentamente verso l'orecchio, osservando cosa succede nel fianco sotto. Come abbiamo visto prima, sentirete che il fianco sotto si solleva quando la spalla sale verso l'orecchio, le costole si sollevano. E poi di seguito muovete la spalla verso il basso, verso il bacino, la testa leggermente si solleva. Quindi fate un movimento piccolo, piccolo, piccolo, lento, lento, lento, senza sforzo. Una volta la spalla sale e una volta la spalla scende. E visto che il corpo è un tutt'uno, tutto il resto si asseconda. Non perché lo volete alla Kant, ma perché liberamente lasciate, ascoltando e con consapevolezza, che tutto il corpo si muova, che sia un movimento che pian piano fate, partendo da una parte e lasciando libere tutte le altre di partecipare. Vi fermate e vi riposate un po', supini, pancia in su, gambe allungate. se qualcuno fa fatica, avete i cuscini nelle gambe e volete stare sul fianco, state pure sul fianco. Il mettersi supini serve per due cose: uno, per vedere le differenze; due, per dare sollievo al fianco sul quale state sdraiati. Ok, ritornate sullo stesso fianco. Messi a seggiolina, e seggiolina vi ricordo che è 90 gradi tra busto e cosce, 90 gradi tra cosce e gamba. Il braccio sopra è allungato e appoggiato sull'anca. Ed ora cominciate molto lentamente a muovere la stessa spalla in avanti. In avanti. E ritorno. E osservate se effettivamente muovete la spalla avanti, il che non è detto. Un po', perché può essere che non vi sia chiaro il movimento, e un po' perché vi è chiaro e non ci riuscite. Quindi piano piano piano muovete la spalla avanti e ritorno. E man mano che muovete la spalla avanti, osservate se il movimento è solo nella spalla o pian piano trascina altre parti. Non perché vi costringete a muoverle, ma perché ascoltando vi rendete conto che pian piano, se partecipano, il movimento diventa più gradevole e vi semplifica il movimento. Quindi adesso, quando muovete la spalla avanti, lasciate che si muova forse anche il torace. La colonna vertebrale, la testa. Man mano che la spalla va avanti, anche il torace e la colonna vertebrale si muovono avanti. Molto lentamente, osservando se la spalla si muove ancora a scatto, come è possibile che si sia mossa prima, e se si muove a scatto non c'è problema, fate il movimento sempre più piccolo, al limite tra il pensato e l'agito. Senza frustrarvi se non vi riesce subito. Osservate se respirate, come tenete la bocca. Ed ora provate a tenere fermo un attimo il torace e la colonna vertebrale, la testa, e a muovere solo la spalla avanti, osservando se adesso il movimento è un po' più chiaro, un po' più facile, gradevole. Ed ora cominciamo lo stesso movimento indietro, quindi muovete la spalla destra se siete sul fianco sinistro e la sinistra se siete sul fianco destro indietro. Osservate come viene il movimento, poi osservate se potete far partecipare altre parti del corpo . Esempio, il torace, la colonna vertebrale, la testa, il collo, e poi provate a farlo muovendo ancora una volta solo la spalla, sentendo la differenza. Bene, ora abbinate i due movimenti lentamente, muovete la spalla avanti e indietro e potete sbizzarrirvi muovendo appena appena la spalla con un movimento molto piccolo, lasciando che si muova tutto, muovendo di nuovo solo la spalla. Giocate, perché l'importante non è ripetere, ma osservare e esplorare quello che succede nel corpo. Se il movimento è a scatti, nessun problema, diminuitelo. Passate attraverso gli scatti, fatelo al limite tra il pensato e l'agito, senza mai forzare. Se è piccolissimo, vi renderete conto delle abitudini, delle facilità, dei blocchi. Senza mai forzare la parte che non va, senza mai andare al limite del dolore e della tensione, fermandosi prima. E vi mettete tutti supini e vi riposate un attimo. E quando siete supini, osservate se c'è qualche piccola differenza tra il lato sul quale avete lavorato e l'altro. Bene, ritornate ancora sullo stesso lato. Ed ora immaginate di dover descrivere con la spalla sopra che avete mosso fino ad ora la circonduzione, quindi un orologio dove le 12 sono il muoversi in su verso l'orecchio, le 3 in avanti, le 6 in basso verso l'anca e le 9 indietro. Ma non facciamo subito tutto il quadrante, cominciamo con il muovere le lancette dell'orologio, quindi la spalla, verso le 12, quindi verso l'orecchio, e poi descrivendo il quarto di quadrante che dalle 12 passa alle 1, alle 2, alle 3, fino ad arrivare alla spalla avanti. E poi da spalla avanti andate indietro, alle 2, alle 1 e alle 12 e continuate. Quindi è come un semiarco che va dall'alto le 12 verso l'orecchio all'una, due, tre, avanti verso le 3. Dalle 3 alle 2, 1, 12 in alto verso l'orecchio e di nuovo avanti. Attenzione che vedo qualcuno che non ce l'ha molto chiaro. La spalla descrive, pian piano che faremo il movimento, un cerchio. Per il momento non si descrive tutto il cerchio, ma solo un quarto. Chi ha fatto trigonometria sa dei quadranti con le due assi che dividono. Adesso facciamo il movimento della spalla che sale verso l'orecchio, le 12, e passando attraverso le 1 e le 2 va in avanti verso le 3. E dalle 3 va attraverso le 2 e le 1, torna in alto verso le 12. Non indietro. Non indietro. Non indietro. Ok, adesso continuiamo e questa volta descrivete l'arco di cerchio che va dalle 3 alle 6. Quindi il braccio va in avanti, scusate, la spalla va in avanti verso le 3, poi si muove verso le 4, le 5, in basso verso le 6. E quando si muove, descrivendo questa parte, potete permettere alla testa e al torace come prima di muoversi, quindi magari di premere il torace, di sollevare un po' la testa. Come prima può essere che quando avete mosso la spalla verso le 12 e in avanti fino alle 3 abbiate sollevato, come abbiamo fatto all'inizio, le costole. Quindi ora continuate, spalla avanti verso le 3 e poi 4, 5 in basso verso le 6. Cioè partendo dalle 3 quindi? Sì. E il braccio è sempre appoggiato? Il braccio è sempre appoggiato sull'anca. Ed ora dalle 6. Quindi muovete la spalla verso il basso, andate alle 9, quindi la spalla si muove verso il basso alle 6 e indietro alle 7, alle 8 e alle 9. E quando siete indietro ritornate pian piano attraverso le 8 e le 7 in basso fino alle 6. Non in avanti, ma si muove la spalla in basso verso le 6, verso l'anca, e poi dall'anca si va indietro verso le 7, le 8 e le 9. È lo stesso, è speculare il movimento. Scusa, io ero così. Tu in quella posizione muovi la spalla in basso e poi, e questo sarebbe il 6, vieni, no, non in avanti, indietro, verso di me, ok. Ma questo l'avevo fatto prima dalle 3. E allora fai il contrario, e allora fai il contrario. Ok, fai il contrario. Mani morbide, vedo delle dita, delle mani irrigidite. Il braccio è abbandonato. E adesso andate oltre e facciamo l'ultimo quarto, quello che manca. Quindi da spalla dietro alle 9, muovete, descrivendo le 10, le 11, e arrivate a muovere la spalla in alto alle 12. E sentirete che probabilmente il lato sul quale state appoggiate ha le costole che si sollevano un po'. E poi da lì, dalla spalla in alto verso l'orecchio alle 12, la muovete indietro alle 11, alle 10, fino ad arrivare alle 9. E tu lo fai speculare come hai fatto prima, contrario. Bene, adesso provate a descrivere tutto quanto l'orologio muovendo e descrivendo tutte le ore un po' in senso orario per avanti e un po' in senso antiorario per dietro. L'attenzione è messa sul come fate il movimento e come e se pian piano coinvolgete tutto il corpo. Ok, vi mettete supini e vi riposate. E non solo vi riposate, ma osservate se c'è differenza tra una spalla, un braccio e l'altro nel modo di appoggiare a terra. E poi non vi lascio riposare troppo, ritornate sullo stesso fianco. Sempre a seggiolina. E questa volta muovete l'anca verso l'alto, quindi muovete l'anca sulla quale non siete appoggiati verso la testa. E osservate cosa succede nella schiena, nel torace. E ricordo che se qualcuno sente tensione tirare nell'articolazione dell'anca, forse si può agevolare mettendo un cuscino o qualcosa tra le gambe. Perfetto. E adesso cominciate a muovere l'anca verso il basso. Quindi vi accorgerete non in avanti, ma verso il basso, verso i piedi. Quindi vi accorgerete che il lato sul quale siete sdraiati ha le costole che si sollevano, che vengono come tirate le costole, la colonna vertebrale, verso il basso, dal bacino, dall'anca che si muove. E si tira dietro tutto il resto, staccandolo da terra. Ed ora di seguito muovete l'anca verso la testa, verso l'alto, verso le 12 e verso il basso, verso i piedi, verso le 6. E continuate sempre con l'idea di osservare come vi muovete, pian piano, in modo da muovervi, facendo sì che l'impossibile diventi possibile, il possibile facile e il facile gradevole, piacevole, elegante. Movimento piccolo, osservando come vi muovete, come tutto il corpo partecipa, dando tempo alle vie volontarie di partecipare senza entrare in automatico. Io lo vedo quando pensate ai fatti vostri, si vede che subito il movimento diventa automatico e quindi non cogliete tutte le sfumature, non riuscite a muovervi intenzionalmente, a scegliere le direzioni. Ok, e adesso cominciate a far scivolare, tenendo fermo il piede in avanti, il ginocchio della gamba che è sopra. Ripeto, muovete in avanti, quindi verso le 3, il ginocchio della gamba che è sopra, non quella che è appoggiata a terra, che sta ferma, ma quella che è sopra, e il piede sta fermo, quindi si muove il ginocchio che fa muovere l'anca. Se muovete il piede, anca e ginocchio se ne stanno fermi e non fate il movimento che voglio io, è un altro. Quindi scivolate col ginocchio avanti e tornate avanti verso le 3 e tornate al punto neutro, osservando come vi muovete. Potete fare varie prove, varie esplorazioni, muovere solo il ginocchio, sentire come viene tirata l'anca, osservare se la schiena sta ferma, se la muovete. Provate tutte le possibilità, divertitevi. Una cosa si apprende se si passa attraverso questa piacevolezza del movimento. È più facile. Ok. E adesso muovete lo stesso ginocchio indietro verso le 9. Il piede sta fermo. E muovete il ginocchio e l'anca indietro. Osservando come passa il movimento nel bacino, nella colonna vertebrale, fin dove arriva. E cominciate di seguito a muovervi avanti verso le 3 e indietro verso le 9. Vi fermate e vi riposate supini. Lavoro con i cuscini. Vi siete riposate a sufficienza? Ritornate sullo stesso pianto. Questo lo dici tu. Eh certo. Devo far così, altrimenti passa un quarto d'ora. Sì, no, scherzo. Bene, adesso, come abbiamo fatto con la spalla, descriviamo tutto quanto il cerchio, l'orologio. Quando muoviamo l'anca verso l'orecchio, l'alto, l'orecchio sono le 12, quando muovete il ginocchio avanti sono le 3, quando muovete l'anca in basso verso il piede sono le 6, quando muovete il ginocchio e l'anca indietro sono le 9. Ma snoccioliamo il movimento. Quindi adesso muovete l'anca in alto verso l'orecchio, le 12, e poi descrivete il semiarco che arriva fino alle 3, quindi anca in alto verso l'orecchio, le 12, e poi passate attraverso le 1, le 2, infine fate scivolare il ginocchio avanti, siete sulle 3, e poi tornate passando dalle 3 alle 2, alle 1 e alle 12. Quindi il cerchio è diviso in 4 parti e fate la parte di cerchio che è in alto e avanti. Osservando se state respirando. Osservando come tenete la bocca, le dita, le mani. Se siete con gli occhi chiusi, aperti. Ed ora continuate descrivendo la parte della circonferenza che va dalle 3 alle 6. Quindi scivolate col ginocchio avanti e poi muovete l'anca verso le 4, le 5 e in basso verso le 6 e poi tornate dalle 6 alle 5 alle 4 alle 3 osservando cosa succede nella colonna vertebrale e nel fianco sotto. Vi accorgerete che quando siete sulle 6, le costole si sollevano dalla terra. Tirate dal bacino che scende, che tira la colonna vertebrale. Ed ora passate dalle 6 alle 9, muovete l'anca verso il basso, siete sulle 6, poi andate alle 7, alle 8, indietro verso le 9 e dalle 9 tornate alle 8, alle 7 e verso il basso alle 6. Quindi questa volta descrivete il quarto di cerchio in basso e indietro. Osservate il respiro, la bocca, se ci sono delle parti del corpo che irrigidite, contraete, anche se non è indispensabile. E infine completiamo il cerchio e vi muovete con l'anca indietro verso le 9 e dalle 9 salite descrivendo le 10, le 11 e in alto verso le 12. E poi dalle 12 tornate indietro verso le 11, le 10 e le 9. E anche qua osserverete che quando l'anca si muove in alto, verso le 12, c'è tutta una reazione nella colonna vertebrale. Ottimo. Descrivete tutto quanto l'orologio. Fate muovere le lancette sia in senso orario che in senso antiorario. E potete variare l'ampiezza facendo un orologino piccolo o più grande. E per apprendere ancora di più, come ho detto in altre lezioni, adeguate il movimento delle parti che si muovono meglio a quelle che si muovono un po' meno. Quindi, per solidarietà, evitate di forzare le parti che fanno fatica, ma secondatele in modo che fioriscano e che imparino. E se non avete invertito il senso, fatelo. Vi riposate supini. E dopo che avete osservato com'è l'appoggio di un lato e dell'altro per terra, ritornate ancora una volta sullo stesso fianco. Muovendo contemporaneamente a seggiolina, mi raccomando, 90 gradi tra tutte le parti del corpo, muovendo contemporaneamente avanti e indietro spalla e ginocchio. Dalle 3 alle 9 avanti e indietro spalla e ginocchio. Solo avanti e indietro. Ed ora muovete la spalla in basso verso le 9 e l'anca in alto verso le, no, scusate, la spalla in basso verso le 6 e l'anca in alto verso le 12. E poi la spalla in alto verso le 12 e l'anca in basso verso le 6. In altre parole, avvicinate spalle ed anca e le allontanate, osservando cosa succede nel lato sul quale siete sdraiati, oltre che su quello che muovete. Ed ora ci sbizzarriamo e cominciate col descrivere l'orologio sia con la spalla che con l'anca, l'uno al contrario dell'altro, uno per avanti e uno per dietro. Trovate le vostre strategie. Potete provare cominciando col descrivere lo stesso senso e poi cambiare. Potete spezzettarvelo pensando di muovere una parte avanti, una indietro e viceversa. Trovate la vostra strada. Non è necessario essere perfetti, arrivarci al primo colpo, anzi è impossibile. se non l'avete mai fatto. Quindi divertitevi e provate in modo da trovare il modo nel quale muovervi. Questo trapano non ci agevola nel lasciarci andare. Ci rompe. Infatti. Bene, vi fermate, togliete i cuscini, vi mettete supini, togliete sia i cuscini delle gambe che quelli della testa e riosserviamo gli appoggi di un lato e dell'altro, confrontandoli e percependoli con quelli dell'inizio. Osservate come sono messi ora i piedi, le punte dei piedi, i talloni, le gambe. Se vi sentite un pochino più simmetrici nelle gambe o se sentite che il piede che prima stava più dritto, la gamba che era più tesa un po' più aperta, o se è uguale. E poi osservate talloni, polpacci, come sono messe, quanto distano le ginocchia, le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. Se avete bisogno di capire muovendovi, muovetelo. E poi come appoggiate tutta la colonna vertebrale e la schiena, quindi il coccige, come è messo l'osso sacro, la parte lombare, le vertebre toraciche, le costole, il collo, la bocca, il mento, la testa. E poi una spalla e l'altra. Quale cade di più? È più aperta nell'appoggio. E di conseguenza, come appoggia un braccio e l'altro nel gomito, polso, mano, dita. E poi, quando siete pronti, piano piano, passando dal fianco, vi sedete senza darvi colpi di testa, ma proprio rotolarete sul fianco, abbandonando la testa, senza darvi colpi per venire dritti con lo sforzo di volontà, senza usare l'intelligenza. E poi pian piano vi alzate in piedi ed osservate la differenza tra un lato e l'altro, prima nello stare fermi in piedi e poi nel camminare.